Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Marco Calzavara, da 50 anni arreda le città vestendo ripetitori e antenne con design e luce. Diana Marino. È un mix di due fattori che sono legati un attimo anche alla storia dell'azienda, a mio padre, a me, una propensione naturale alle cose nuove. Mio padre lo ha fatto con 50 anni di storia su altri prodotti che sono più tradizionali ma tecnicamente innovativi, e poi anche un senso naturale del bello, cioè mia madre per esempio è un artista, quindi rimane un po' nel DNA familiare. Camouflage e gioco, creatività e fantasia, ma soprattutto innovazione e tecnologia, sono tra gli ingredienti principali della manifattura 4.0 per Marco Calzavara, amministratore delegato e seconda generazione dell'omonima azienda di Udine, specializzata nei settori dell'oil and gas ed energia, ma soprattutto delle comunicazioni, da cui deriva il 60% del fatturato e che ha portato Calzavara ad essere presente in oltre 30 paesi. Calzavara ha garantito le telecomunicazioni a Expo 2015. È stata infatti presente all'interno della fiera con 6 ripetitori di 42 metri travestiti da torri mosaico che di notte si illuminavano con giochi di luce. Purtroppo, per fortuna, io a tutti quelli che sono stati all'Expo ho chiesto: avete visto le nostre strutture? E nessuno le ha viste. C'erano 6 torri dai 33 ai 42 metri e nessuno si è accorto che c'erano 6 strutture, torri per telecomunicazioni. Questo perché erano perfettamente integrate nell'Expo. Da un certo punto di vista mi dispiace, ma dall'altro mi rende orgoglioso, perché in effetti erano delle strutture di design che si sposavano perfettamente con l'ambiente. La storia lunga 50 anni di Calzavara, azienda nata a Balisano in provincia di Udine nel 1966 come ditta individuale e in seguito trasformata in SPA nel 1979, vede ancora protagonista il fondatore, Lucio Calzavara. Mio padre ha 88 anni, è presidente, è ancora una persona molto in gamba, ovviamente da una quindicina d'anni, anche di più, non è totalmente operativo perché le redini, in un passaggio generazionale direi fortunato, le ha passate a me. Ma mio padre è partito dal nulla, lui ha iniziato a fare impianti elettrici, è una persona di rara intelligenza e capacità. È il vero imprenditore, secondo me. Allora la SIP, l'attuale TIM, ha chiesto di installare delle antenne, e lui non sapeva cos'era, però ha fatto il lavoro egregiamente. Da lì si è innescato un percorso che ha portato 50 anni di storia. È un'azienda che ha oltre il 50% di fatturato estero. Dalla piccola realtà artigianale degli anni 70 si è passati a una media impresa strutturata, con una soluzione creativa nel bel mezzo del passaggio. L'azienda è rinata come una società, poi dopo qualche anno il socio, c'era un approccio al futuro diverso. Mio padre voleva crescere, lui voleva rimanere sostanzialmente in maniera contenuta, e quindi si sono separati, e quando si sono separati hanno giocato quelle 4, gli operai erano pochi, quindi gli impiegati pochissimi, hanno giocato con lanciando la moneta le macchine, i prodotti e quello che era il patrimonio aziendale, e uno ha vinto una cosa, uno ha vinto all'altra. E lo stesso è successo per gli operai. Hanno scelto o stare da una parte o stare dall'altra. A 50 anni di distanza la Calzavara è un'azienda consolidata, gli altri non ci sono più. Io dico sempre che in qualsiasi attività di successo il 50% è capacità e il 50% è fortuna. E ritengo che sia equamente distribuita la possibilità tra fortuna e capacità. Se manca l'uno o l'altro, è difficile ottenere i risultati che si ottengono. La formazione del padre Lucio è stata fondamentale, ma è maturata non solo sul campo. La famiglia di origine e le generazioni che si sono succedute hanno apportato cambiamenti e innovazioni per un passaggio generazionale chiavi in mano. Lui è geometra, in azienda è chiamato il geometra, quindi ne è orgoglioso di questo fatto. In teoria è la quarta generazione, perché mio nonno aveva un'impresa edile che è stata condotta poi da mio padre, e poi mio padre ha cambiato attorno agli anni 60 l'attività da impresa edile a quella che oggi è. Io sono figlio unico, tra l'altro sono geologo, quindi la mia estrazione culturale è totalmente diversa da quella che l'attività che io faccio, e ben venga, perché questo mi ha aperto un approccio metodologico totalmente diverso. Mio nonno, quando allora aveva un'impresa edile con 100 dipendenti, quindi non era piccola ma nemmeno grande. Ad un certo punto ha detto al mio paese: queste sono le chiavi dell'azienda, adesso è compito tuo. E così è stato. Chiaramente il passaggio era felice, perché mio padre aveva le capacità per condurre e far incrementare l'impresa. Più o meno lo stesso è avvenuto tra mio padre e me. Non abbiamo avuto dei conflitti, nel senso che la cosa fondamentale in qualsiasi passaggio generazionale è la fiducia. Nel momento in cui tu, imprenditore, ritieni che tuo figlio abbia le capacità, devi saper metterti da parte. L'addio ai vecchi tralicci di 70 metri è arrivato con gli alberi traliccio. Palme, pini marittimi, cipressi confusi nei boschi, poi la città. Arredi in cui si nascondono servizi dalla A alla Z per tecnologie wireless, ponti radio, reti cellulari, fisse, radiomobili private e di diffusione radiotelevisiva. Comunicazioni senza un brutto impatto estetico sul paesaggio, anzi, con un impatto migliore. Dividiamo le cose in due parti distinte. L'inizio, di circa 10-15 anni fa, è riferito a questi alberi artificiali che hanno anche dei brevetti. La cosa sembra banale, ma in realtà non lo è, perché richiede tecnologicamente un qualcosa che deve resistere in condizioni ambientali estreme per diversi anni. Poi abbiamo fatto un ulteriore passo, che è quello dell'arredo urbano, cioè dal copiare la natura a inserirsi nell'ambiente urbano. Quindi le nostre strutture sono più proprio chiamate di arredo urbano, e quindi si integrano con pannelli, particolari forme di design a quella che è un ambiente cittadino senza avere impatti particolari. Oman, Arabia Saudita, Cile, Perù. Le torri devono resistere a temperature che oscillano tra meno 30 e più 50 gradi. Ma soprattutto Marco Calzavara spiega anche con un certo stupore come le nicchie di eccellenza imprenditoriale italiana arrivano in tutto il mondo grazie all'estetica Made in Italy. Per quanto riguarda gli alberi artificiali, i nostri mercati più importanti sono il Medio Oriente. Invece di vendere ghiaccio agli eschimesi, vendiamo le palme ai sauditi. Questo lo dico sempre, ma la trovo divertente, ma è così, è uno dei nostri principali mercati. Poi vendiamo le strutture di design anche sempre in Arabia Saudita. Riyadh ha solo le nostre strutture di design. Si sta aprendo il mercato degli Stati Uniti, dove sembra impossibile, ma queste strutture sono assolutamente innovative. La Cina stessa per il mercato interno. La Cina prevede nei prossimi anni l'installazione di 1 milione di stazioni radiobase. Le stazioni radiobase sono i tralicci che noi vediamo e che trasmettono il segnale cellulare. Sono dei numeri impressionanti. Ebbene, anche lì le nostre strutture sono trovate innovative, non c'è nessuno che ancora abbia questi prodotti, che sono un mix tecnologico tra metallo, plastica, trasparenza radioelettrica, cioè c'è la necessità di diverse competenze. Addirittura l'Australia è un altro mercato che si sta aprendo. Ci sono alcuni paesi stranieri, alcune aziende straniere che cercano di copiarci, mi riferisco ai turchi, agli egiziani, anche agli stessi cinesi, ma i risultati ancora oggi non sono gli stessi e non riesco a capirne il motivo probabilmente si riporta alla nostra cultura. Ma il territorio rimane importante e non si delocalizza, come sottolinea Marco Calzavara. Noi siamo a Udine, anzi a Basiliano, ma è un paesino vicino a Udine e rimaniamo lì. Il rapporto con tutti gli artigiani è fondamentale. Il Friuli ha un background, ha un sottofondo di artigianato importante e di qualità. E poi le persone che hanno lavorato. Dall'Alto Friuli, dalla Carnia, quando è iniziato mio padre, era un passaparola. Ci sono dei paesi o delle vallate in cui in periodi ben determinati della storia dell'azienda c'è un incremento, un picco di persone che vengono da quella, può essere dalle del Natisone vicino Cividale o dalla Carnia, Tolmezzo, in ambienti anche un po' isolati e ruvidi. L'inizio dell'azienda è sostanzialmente legato al territorio, come personale che ha operato, voglia di fare, capacità, e ovviamente anche come subfornitore, come quella pletora di piccole aziende artigiane che hanno operato e continuano a operare con la Calzavara. E il territorio insegna non un dialetto, ma una lingua e una storia che con la sua saggezza aiuta l'imprenditore. In realtà il Friuli ha una lingua di origine ladina che è il friulano. Il mio orgoglio di essere friulano mi impone di dirlo. Diciamo che quello che mio padre ha sempre sostenuto è che La cosa importante è che ognuno sappia fare il proprio mestiere e ognuno ha la stessa dignità. Se uno fa il carpentiere e sa fare bene il carpentiere, ha lo stesso valore di uno che fa l'amministratore delegato della società. La frase è "Fasin di Bessoi". Fasin di Bessoi vuol dire facciamo da soli. Vale un po' come mentalità da noi, ma è nata nel lontano 1976, quando in Friuli purtroppo è avvenuto un terremoto piuttosto sanguinoso. E allora nessuno ha aspettato gli aiuti, la gente si è rimboccata le maniche, ha incominciato a lavorare e il motto diffuso era "Fasin di Bessoi", che vuol dire facciamo da soli, ci organizziamo, andiamo avanti. Questa è sempre stata anche un po' la mia idea, cioè al di fuori dei perimetri aziendali c'è il mondo, è come il deserto dei Tartari di Buzzati in Italia, questa è una mia opinione. Quindi bisogna incominciare a ragionare all'interno dei propri perimetri aziendali. Quello che viene dal di fuori è tutto regalato, come si dice, è grasso che cola. Quindi il motto dell'azienda è "Fasin di Bessoi", facciamo da soli. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.